Con il sole e con la pioggia, con la neve e con il vento, non perdete questo evento. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Io spero, mi auguro, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, che voi abbiate preso appunti questa settimana, o perlomeno abbiate una buona memoria, perché cercavo di ricapitolare adesso questi pochi secondi che mancavano prima dell'inizio le tantissime notizie. Sembra, sarà un'impressione, che ci sia un crescendo di settimana in settimana. Non so neanche più come si potranno contenere tutte queste notizie. E tenete conto che, tra l'altro, quelle che ci colpiscono di più, quelle di cui più si parla durante la settimana, sono solo una minimissima guerrima parte di tutto quello che succede in Italia e nel mondo. Ma come sempre lo sapete, poi all'inizio vi faccio un brevissimo riassunto, ma poi la libertà di scegliere la notizia e di commentarla sta a voi, sempre col numero verde a vostra disposizione, che è 800 24 00 24. Fatelo il prima possibile, perché poi tanti mi dicono ma insomma alla fine correvi, non sono riuscito a entrare a parlare, insomma i tempi sono quelli, sapete che un po' prima delle 15 chiudo i battenti, quindi vi ripeto il numero verde è 800 24 00 24, che è un numero verde, quindi gratuito e ecologico, come sapete, perché evitate in questo modo di disperdere energie, tempo, pensieri nell'ambiente, e invece le risorse, i pensieri, le energie le convogliate tutte qui e non ci sono più le mezze stagioni. Un'azione ecologica che potete fare ogni sabato, oltre che estremamente intelligente, naturalmente. E vi dicevo, a proposito delle notizie, sapete che su questo problema terribile della disoccupazione e l'occupazione giovanile, ma non solo, c'è stato il vertice europeo. Il Presidente del Consiglio Letta si è detto molto soddisfatto perché all'Italia arriverà 1,5 miliardi. Qualcuno dice che in realtà è poca roba, insomma chi vede il bicchiere mezzo pieno, chi lo vede mezzo vuoto, mentre Saccomanni, Ministro dell'Economia, già annuncia, quindi questa sembra una buona notizia sull'occupazione, ma lui annuncia un piano per tagliare le spese e non sarà indolore, sperando che non sia come sempre indolore, non sia indolore per le solite persone, per le solite categorie. Ecco, ci raccomandiamo su questo. Sicuramente questa poi è stata la settimana, per quanto riguarda l'Italia, segnata in particolar modo dalle dimissioni della ministra delle pari opportunità Josefa Idem e dalla sentenza del processo Ruby per Berlusconi. Quanto alle dimissioni della ministra Josefa Idem, vorrei anche dire che, così come per magia, è scomparso il Ministero delle Pari Opportunità, cioè si è dimessa lei ed è scomparso. Presidente Letta ha scritto in questi giorni sul Corriere della Sera, rispondendo a Barbara Stefanelli, se non sbaglio, dicendo non è vero che è stata una non scelta, non è vero che non ci interessano le pari opportunità, abbiamo colto l'occasione per farlo fuori. No, io in realtà ho dato le deleghe al Ministero del Lavoro, delle politiche sociali, perché c'è tutto un legame che unisce pari opportunità. Per carità, a me non ha convinto comunque questa spiegazione, perché le pari opportunità, benché non abbiano fatto degli anni delle cose clamorose, è un ministero che rappresenta simbolicamente e concretamente un presidio su questo argomento. Se non ce ne fosse bisogno, non assisteremmo ogni 2-3 giorni a un femminicidio, non ci sarebbero le donne che continuano a essere pagate meno degli uomini, non ci sarebbe poca rappresentanza sia politica ma anche nelle aziende, nelle carriere di qualsiasi tipo, nessun settore fa eccezione. Quindi queste pari opportunità, penseremo a una petizione, vedremo cosa fare. Mi sembra veramente una scelta inopportuna quello di farlo sparire insieme alla Idem. Dopodiché, dicevamo, appunto, la sentenza Ruby di primo grado, per il momento, che condanna Silvio Berlusconi a 7 anni di carcere e interdizione perpetua dai pubblici uffici. Lui ha detto questo è un plotone di esecuzione, con tutte le polemiche naturalmente che sono seguite. Poi c'è anche Lodo Mondadori, sempre dei processi riguardanti Berlusconi. Il procuratore generale della Cassazione ha chiesto, dice sì, va bene il risarcimento dei benedetti, ma deve essere ridotto di 50 milioni. Poi c'è stato l'annuncio prima di Alfano, segretario del PDL, nonché vicepresidente del Consiglio, che ha detto ci sarà un ritorno a Forza Italia. Ieri l'ha annunciato ufficialmente Berlusconi, dicendo temo che a guidarlo dovrò essere sempre io, anche se in questi giorni si è fatto il nome insistentemente di Marina Berlusconi come sua successora. Poi ne parleremo. Ci sono state le elezioni amministrative in Sicilia, che sono state un po' una svolta per perché la Sicilia per 20 anni è stata un po' il feudo di Forza Italia, del Popolo della Libertà. Invece, per esempio, Ragusa ha vinto il Movimento 5 Stelle, a Messina è emerso il leader del comitato contro il ponte sullo stretto, il sindaco coi piedi scalzi, a Siracusa il sindaco del PD. Poi la grande svolta storica negli Stati Uniti, la Corte Suprema ha deciso che il matrimonio esclusivo per persone eterosessuali, per donne e uomini, è una forte discriminazione insostenibile, quindi ha abolito questa legge che prevedeva che il matrimonio poteva essere solo tra uomini e donne. Adesso in California c'è stato un boom di richieste di matrimoni. Evasione fiscale, se ne parla tanto, di combatterla eccetera, è venuto fuori il mondo del calcio con la Guardia di Finanza, che è stata nelle sedi di 41 club coinvolte, un po' tutte le big, le grandi squadre. Una bella vergogna, poi vedremo come andrà questa inchiesta. È stato trovato in mare l'aereo di Missoni in Venezuela, è morto Emilio Colombo, l'ultimo padre costituente dell'Italia. Per il calcio Stefano Borgonovo, che sapete da tanti anni lottava contro la SLA. E poi notizia di questa mattina, è morta la grande astrofisica, straordinaria scienziata, ma anche persona, donna, Margherita Hack. Bene, direi a questo punto di raccontarci però, come sempre, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, che cos'è che anche questa settimana ci dimostra che non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere. Sono un granché. Sapete, nel corso della storia gli esseri umani, diciamo più precisamente gli uomini, hanno cercato di costruire le armi più terribili per farsi fuori gli uni gli altri, no? Anche per quanto riguarda i proiettili all'uranio impoverito, poi con tutte le miscele, le sostanze che potessero annientare il nemico. Ebbene, adesso una società americana che si chiama South Fork Industries, che sembrerebbe forchetta del sud, industria della forchetta del sud, ha inventato contro il terrorismo islamico proiettili al maiale. Contro il terrorismo islamico, cioè una nuova linea di munizioni che vuole combattere il terrorismo e l'islamismo radicale a colpi di prosciutto. Praticamente su questi proiettili viene spalmata e poi ci rimane ben attaccata uno strato di grasso di maiale, perché pensano questi, un'azienda produttrice formata da un gruppo di ex combattenti in Afghanistan, pensano che con quest'arma di carne suina si vuole far paura ai terroristi musulmani, convincendoli che se rimanessero colpiti da un proiettile contaminato al maiale il loro corpo verrebbe profanato, non raggiungerebbe mai il paradiso. Qualche esperto in questi giorni ha detto in realtà non gliene importerà niente di questo, per dirvi insomma come cambiano le cose e quali invenzioni incredibili. Adesso a questo punto però, ascoltatrici e ascoltatori, è il momento di presentarvi l'opinionista estemporaneo di oggi. Oliviero Bea. Buonasera Roberto, buonasera a tutti. Bentornato Oliviero, che è giornalista, scrittore, saggista, autore teatrale, conduttore televisivo, radiofonico, chi più ne ha più ne metta, caro Oliviero. Tra l'altro ti volevo chiedere, brontoli ancora sempre lunedì o fai la pausa estiva? No, ho brontolato lunedì scorso. Su Rai 3? Sì, fino a lunedì scorso, su Rai 3, adesso c'è la pausa estiva, naturalmente come sempre nella mia vita non so se ricomincerò a settembre, ma questo, come dire, può interessare fino a un certo punto. E adesso invece sono a Spoleto per il Festival dei Due Mondi, dove ho uno strano incontro stasera e domattina. Si chiama Istinto di Conversazione, che è un po' quello che tu fai alla radio con gli ascoltatori. Io lo faccio con un po' di persone, ragionando sui temi intergenerazionali, cioè padri e figli, madri e figli, insomma queste cose qua. Mi è piaciuto che hai ricordato anche le madri e figlie. È un istinto questo veramente incontenibile della conversazione con le altre persone, in particolare con gli ascoltatori, col pubblico. E ti volevo chiedere, Oliviero, secondo te questa professione del faccendiere, visto che si parla tantissimo di Luigi Bisignani, se ne è tornato a parlare da qualche tempo, adesso c'è il suo libro ed è stato lui che ha annunciato per primo nei giorni scorsi come successora di Berlusconi, Marina Berlusconi, la figlia, questo mestiere del faccendiere, e poi è rivenuto fuori la vitola, no, col processo di Napoli contro Berlusconi sulla presunta compravendita di senatori, deputati eccetera eccetera, anche lui faccendiere. Cioè è un mestiere tipicamente italiano o c'è una traduzione anche, tu che sei uomo di mondo, all'estero? Allora, non so quanto io sia uomo di mondo. Ma all'estero sì, la chiamano nobilmente lobby, lobbismo a vari livelli. Con, beh, un po' più elegante però, cosa, lobby. Appunto, dicevo, con varie nobiltà di giudizio. E il nostro è un paese sbriciolato in cui, in questo deserto, da sempre i faccendieri possono lavorare meglio. L'ultimo, a proposito di Bisignani e di Marina Berlusconi, non è detto che poi quelle previsioni vadano a buon fine, perché Berlusconi padre ha detto il contrario, quindi insomma bisogna prendere atto che nel deserto ogni tanto qualcuno vende cammelli e acqua. Senti, che però nel deserto sono abbastanza necessari. Ho notato che però al nome di Marina Berlusconi c'è stato un grande entusiasmo, una ola tra le parlamentari del PD donne, mentre tutti gli uomini si sono detti piuttosto contrari, anzi un po' irritati anche da questa possibile previsione. Trovi una sorta di misoginia? Io sì, tu? Ma io trovo una sorta di schematismo. Io tutto quello che condivido, tutto quello che hai detto a proposito della discriminazione nei confronti delle donne, lo vediamo, ne abbiamo parlato. La scomparsa del Ministero delle Pari Opportunità a me sembra una follia. Ma è altrettanto un segno all'idea che un ministero di quel genere sia stata chiamata una persona rispettabilissima come sportiva, straordinaria come agonista olimpionica, e poi che non partecipava alle riunioni del Consiglio Comunale di Ravenna dove era, che aveva queste cose della palestra. Insomma, il danno che si è fatto è superiore all'idea di nominarla, non so se ho reso l'idea. Quindi non si può dimenticare questo aspetto. Quando si giustamente si sottolinea sparisce il Ministero per opportunità, poi fra l'altro varie opportunità, sport, qualità della vita e tempo libero e altre cose, quindi è una cosa complessa. Purtroppo noi assistiamo a da troppo tempo a una dimensione della politica fatta di annunci, di immagine, di superficie. Sì. E in questo caso la superficie specula sulla donna, sulla figura della donna invece che valorizzarla, non so se ho reso l'idea. Quindi questo è un aspetto rischioso. Se poi alla fine mi dici ma era meglio che ci fosse il ministero oppure no, ti dico sì, era meglio che ci fosse, però tutto questo lo vorrei contestualizzare in un panorama deficitario. Posso dirti anche che per esempio una come Margherita Hack forse l'avrei nominata senatrice a vita. Ne parlavo proprio stamattina con mia mamma, guarda. Allora, sia tua mamma che io su questo sono d'accordo e sono anche d'accordo sul fatto che siccome da 5 anni questa straordinaria persona, che è maschio purtroppo diciamo da questo punto di vista, però comunque una straordinaria persona come Stefano Borgonovo, che a fianco ha avuto una moglie straordinaria come Chantal Borgonovo, che è donna, bene, uno come Borgonovo forse deve essere fatto senatore a vita. Sono d'accordo sia sull'H, di cui parlavo appunto con mia mamma questa mattina al telefono, sia su Borgonovo. Pare invece, diceva ieri Travaglio nel suo editoriale sul Fatto Quotidiano, che si fa il nome di Gianni Letta, per esempio, tra i possibili senatori a vita. Ti piace? L'ho visto ieri sera qui a Spoleto. A me non mi è antipatico, ti devo dire la verità, fisicamente, però insomma vogliamo parlare sempre di queste cose. Questo è un paese finito. Questi sono segnali di finis epoca, non so se rendo l'idea. Ecco, uno come Borgonovo o una come la Hack erano segnali di resistenza umana. Sì. Non sono sicuro che uno come Letta significhi la stessa cosa. E visto che parlavi di rendere l'idea prima della prossima pausa per aggiornare chi sta viaggiando, volevo ricordarvi, sapete, spesso faccio l'elenco, a volte mi perdo perché sono talmente tante le cose da dire e talmente sempre ci sono i femminicidi, che però anche questa settimana a Ravanusa nell'Agrigentino una donna è stata ammazzata mentre era in auto, inseguita dal marito 63enne, che ex marito che non si rassegnava l'idea di essere ex marito, e le ha sparato e l'ha uccisa, ha ferito anche il nuovo compagno. A Salerno una donna è stata sgozzata in casa e poi data alle fiamme, e a Bologna una donna è stata ritrovata, come sapete, nel congelatore con la testa fracassata. Si cerca il fidanzato, che però pare irreperibile. Intanto scompare il Ministero delle Pari Opportunità e Discriminazione, poi in tutti gli ambiti, non solo quelli che riguardano il femminicidio. Ci fa compagnia come opinionista estemporaneo oggi dal Festival dei Due Mondi di Spoleto Oliviero Bea, giornalista, scrittore, saggista, autore teatrale, conduttore televisivo e radiofonico. Questo lo sapete. E tra poco c'è al numero verde 800 24 00 24 la prima ascoltatrice che ha chiamato con una rapidità straordinaria, Alessandra da Genova, mentre continuano ad arrivare centinaia di telefonate a Benedetta Acri, ai telefoni bollenti. Direi di cominciare a sentire Alessandra. Alessandra. Pronto? Pronto? Cara Roberta, come stai? Ma diciamo ho passato tempi migliori, ma insomma si procede. Tu Alessandra? Insomma, anch'io da vecchierella, io da vecchierella. Ma vivace, ti sento, sì. Mi sento piano e comunque forse qua siamo un po' sulla montagna, che pur essendo a Peglio, non so se conosci Genova. Dove esattamente? Abbiamo anche un po' di montagne intorno. Sì, sì, lo so, è stretta Genova tra il mare e la cornice di montagne dietro, no? Un po' tutta la Liguria. Certo, a volte non c'è il segnale. Bene, Roberto, io volevo intervenire su questo che mi fa tra l'altro molto piacere, vero? Comincia ad avere effetto la gestione di Papa Francesco, cominciano ad arrestare qualche mascalzone, qualche monsignore mascalzone che finora era rimasto nell'ombra, aveva trafficato, eccetera. Di questo volevo dire però che la Chiesa, pur scendendo a livelli mostruosi, fanno di tutto e di più, sono delle persone incredibili, ecco, però poi c'è questo colpo d'ala e ci sono stati questi santi nella storia della Chiesa. La Chiesa è vero, poi è ricaduta, ha fatto delle puttanate mostruose, però poi c'è, invece nella politica, nella nostra politica c'è un continuum. E questo non accade, che mi fa venire in mente che forse è davvero che c'è una, come si può dire, un rapporto spirituale che qualcuno ogni tanto ci mette le mani e fa una pasta diversa. Cosa ne dici? Cioè, dice Alessandra, un istinto di riscatto ogni tanto la Chiesa ce l'ha, pur con tutto quello che a livello di alte gerarchie combina, non solo alte, certo. Mentre la politica no. Questo è un po' il tuo concetto, Alessandra. Sì, certo. Tra l'altro devo dirti, ti ringrazio Alessandra, che notizia di oggi, si ritorna da tempo a parlare del caso di Emanuela Orlandi e si parla adesso della pista IOR, tanto per, visto che lo IOR già in questi giorni era nella bufera. Io voglio chiedere quindi Alessandra a Oliviero Bea, Papa Francesco già da tempo sta dicendo Dio non ha bisogno di una banca, che Gesù non aveva una banca, eccetera eccetera, questo IOR, insomma, mi pare che sia un po' troppi anni, almeno un trentennio che sia al centro di misteri, scandali, inchieste, dubbi, opacità, accidenti. E poi da Marcinkus in poi, anche solo voler partire da Marcinkus con Calvi e tutto il resto, e il bubone è cresciuto e evidentemente è arrivato a maturazione. Quello che diceva Alessandra credo che sia molto giusto e andrebbe approfondito, adesso non abbiamo tempo, modo, però insomma in due parole, la Chiesa si fonda, credo, fondamentalmente su due aspetti. Uno, il tempo alle sue spalle, la Chiesa ha 2000 anni e non è un caso, e due, il fatto che fonda su una quintessenza spirituale che comunque, anche quando le cose vanno malissime, quando i Marcinkus imperano, rimane sotto traccia. La politica di oggi ha perso qualunque tipo di anima, e questo è il punto di fondo, e quindi il potere temporale della Chiesa rimane una sua macchia, il potere temporale, che naturalmente è l'essenza della politica, rimane la sua condanna, quindi non c'è altro. Questo per dare un'idea proprio a braccio della differenza. Quanto a quello che dice Papa Bergoglio, o Francesco I, o insomma come lo chiamate, sai che a Roma faticano a chiamarlo Papa Francesco perché pensano tutti a Totti, che è un'altra delle religioni italiane molto diffuse, quella della calcisticizzazione, Papa Bergoglio dà dei segnali forti, adesso vedremo quello che succede, ma li sta dando, esattamente quelli che non arrivano dal laicismo governativo. Anna Maria dalla provincia di Milano, sempre all'800240024, eccoci. Sì, buongiorno Roberta. Prontissima. Innanzitutto volevo congratularmi con lei perché ha ricordato, la mia telefonata era quella, Margherita Hack, mi sono commossa, però voglio unire, lo so che è morto da qualche tempo, da qualche settimana, anche Don Gallo, perché l'umanità ha perso due grandi. Sono d'accordo con te, che nessuno potrà più riprodurre. Mi ha commosso, ecco, io sono grande amica, anche se non la conosco personalmente, di Margherita. Poi le seconde congratulazioni, finalmente, lo dica Roberta anche al suo collega, io tutte le sere mi riprometto di non sentire più la zanzara, a quel, me lo lasci passare, cretino maschilista di Cruciani. Vabbè, tanto parliamo degli assenti, Anna Maria, lasciamo perdere, parliamo di ma la deve finire, meno male Roberta che ce l'è, che mette, che bilancia un pochettino la situazione. Io mi domando come mai Tamburini non dica niente, ma questo ci insulta. Tamburini non è più direttore, comunque insomma, Anna Maria, ho capito, però grazie, brava Roberta, un abbraccio forte. Grazie, un abbraccio reciproco, grazie Anna Maria per questo abbraccio. E io invece volevo chiederti, Oliviero Bea, 27 giugno, 33° anniversario della strage di Ustica, no? E Napolitano che dice: vanno accertate le responsabilità. È mai possibile che per 33 anni, ogni volta che c'è l'anniversario, bisogna dire la stessa cosa e nulla avviene? Anzi, sembra che l'Avvocatura dello Stato volesse fare ricorso contro il risarcimento alle famiglie. Poi leggo oggi sul Corriere Online che ha rinunciato il governo a fare ricorso. Cioè, ma queste povere famiglie... questo è un segno di grandezza, di esipiscenza del governo. Però, vabbè, quello che dice Napolitano, naturalmente in 7, ormai andiamo verso gli 8 anni, no? Naturalmente di Napolitano. Ma non solo lui, poveraccio, nel senso tutti, no? Da 33 anni, lo dico. Insomma, voglio dire che per un montaggio avremmo potuto sentire le stesse cose in tutti questi anni. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che in realtà poi si affacciano, per merito, devo dire, anche di giornali o di un giornale in particolare, Il Fatto Quotidiano, e non mi fa velo il fatto di scriverci sopra, quindi giusto, cose, teniamole assolutamente distinte, per carità di Dio. E, adesso al di là delle opinioni, travaglio o non travaglio, l'importante del Fatto Quotidiano è che tira fuori le notizie che spesso gli altri ignorano. Vero, naturalmente per volontà, per scelta. Adesso questa storia delle frecce tricolori, di quei due piloti che sapevano a proposito di Ustica, e l'idea che non sia stato un caso, che non sia stato casuale, accidentale, questa disgrazia di Ramstein delle frecce tricolori, insomma, per un qualunque giallista e soprattutto per una procura della Repubblica degna di questo nome dovrebbe essere materiale ricco. In realtà, naturalmente, non si vuole sapere la verità su Ustica. Quindi non voglio più sentire Presidente della Repubblica, Primi Ministri, che dicono bisogna fare chiarezza. O lo fate veramente con l'intenzione, la volontà, la forza, e lo spirito concreto, se no evitiamo la retorica, perché la retorica veramente comincia molto a stancare. Oppure ti suggerisco un'altra formula comunicativa, visto che facciamo comunicazione. Suggerisci. Finalmente il Presidente della Repubblica dica con grande onestà: vogliamo fare opacità. Bravo. Mi sembra onesto, almeno ci mettiamo il cuore in pace e ogni volta non ci illudiamo, no? Che qualcuno voglia fare chiarezza. Bene, passerei la parola, sempre al numero verde 800 24 00 24, a dunque abbiamo Enzo da Roma, o era Paolo da Milano, perdon, c'è prima Paolo da Milano, io ogni tanto perdo la classifica. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Io ho chiamato in relazione alle dimissioni del ministro Idem, che hanno portato allo scioglimento del Ministero delle Pari Opportunità, cosa che dalle sue parole lei sembrava non affrontare con particolare favore. Personalmente sono favorevole. Tu sei favorevole? Sì, perché in Italia e in generale nel mondo non c'è un problema di pari opportunità. Abbiamo una legge che tutela le donne da ogni punto di vista. Le donne hanno perfettamente, ad esempio, la possibilità di candidarsi in politica. La maggioranza degli elettori sono donne, per un fatto di numeri. Chi è Paolo, ma in un Parlamento di nominati, dove ci sono i segretari e le segreterie di partito che decidono. Questo è proprio quello che è successo, perché alle ultime primarie del PD, per esempio, ci sono qualcosa c'era? C'era una lista di uomini e una lista di donne. E li hanno presentati poi alternativamente, prima il vincitore della lista, prima il primo della lista degli uomini, poi la prima della lista delle donne, eccetera. Il risultato qual è? Che è andato in Parlamento un sacco di donne che hanno avuto molti meno voti alle primarie rispetto agli uomini che si erano pur presentati alle primarie. Siamo costantemente di fronte a queste discriminazioni. Adesso c'è questa scandalosa faccenda delle quote rosa nei consigli di amministrazione. Cioè, perché le donne non possono combattere ad armi pari? Paolo, perché non ci sono le armi pari? Paolo, non ci sono le armi pari. Sono come su una pista da corsa, tu sai, gli stacchi di partenza. Quelli degli uomini sono sempre messi avanti, quelle donne di dietro, e grazie tante che non ce la possono fare arrivare. Ma dov'è questo svantaggio delle donne? Chi impedisce alle donne di studiare e di lavorare? È un caso se nella scuola, che diciamocelo pure, il part time meglio pagato del mondo, ci sono tutte professoresse? Certo, perché le donne finora si sono occupate e continuano a occuparsi anche della famiglia, dei figli, dei genitori anziani, delle persone. Ma quale scelta, Paolo? Ma cosa stai parlando? Ma cosa dici? Metà del mio tempo a visitare case di piacere, tipico interesse maschile. Ecco. Nessuno mi risarcirà nel momento in cui una donna vuole. Ma che c'entra? Quella è una necessità. Le donne fanno i figli, perché le donne lo fanno per come si chiama, per osmosi? Le donne sono affezionate dai bambini. Via. A questo punto, padre non frega niente dei figli. Tu sei padre, Paolo? No, Paolo, scusa. Fortunatamente preferisco vivere. Vabbè, questo è il tuo personale legittimo. Devo sostenere una donna che una gravidanza dopo l'altra magari non lavora mai un giorno. Paolo, questo è terribile, perché si continua a dire la nascita zero in Italia, tutti gli uomini che si lamentano, le donne, le cose. Nulla, poi se le donne fanno figli sono a fare loro. Cittadino, devo sostenere le gravidanze altrui. Paolo. Comunque, lasciamo stare la metafisica. Le donne hanno un sacco di privilegi, di guarentigie, di tutele. Hai ragione. Hanno un sacco di privilegi le donne. Io non me ne ero accorta, scusami Paolo, evidentemente. Ma sono molto brave a piangere, come succede adesso anche col femminicidio. Tutti a dire c'è un'ondata di poverine che le ammazza. Ma i numeri del Ministero degli Interni dicono che gli omicidi di donne sono esattamente al livello di prima. Paolo, se io ti dico, se succedesse che tutte le settimane, invece che 3-4 donne uccise dai mariti, ex mariti, fidanzati, ex fidanzati, succedesse il contrario, ci fossero 3-4 uomini uccisi da fidanzate, ex fidanzate, mogli, eccetera, ci sarebbe una rivoluzione, La capacità di violenza dell'uomo sarà sempre così, ma non c'è un'emergenza femminicidio. Paolo, sei stato chiarissimo, guarda, credo che non ci sia da aggiungere altro, questo purtroppo è la mentalità di molti. Ti ringrazio Paolo, e adesso penso che ci sia... Grazie. Se posso... Oliviero, sì. Sì, se posso commentare l'uscita di Paolo, preziosa al contrario. Che dà l'idea di quanti uomini pensano queste cose. Preziosa, intanto perché Paolo comprime la parte femminile della sua personalità, come tutti sappiamo. Psicologia. Abbiamo le due componenti, lui l'ha compressa e ripressa, quindi deve stare attento perché rischia lui, anche se forse non se ne dà conto completamente. Poi, per esempio, quando parla della scuola e delle donne insegnanti, attenzione, su certe cose possiamo anche ragionare, perché sono dei dati, però allora completiamo il quadro. Le donne, il sesso femminile in Italia è all'avanguardia nei titoli di studio, nella ricerca, in tutto quello che sono più laureate degli uomini. Perché tutto questo non si traduce in una dimensione socio-professionale all'altezza? Perché ovviamente le donne sono penalizzatissime e fino adesso sono state tenute basse. Il problema non è la situazione, che è certamente quella di penalizzazione e discriminazione formidabile delle donne, è come rimetterle in circolo o permettere loro di vivere meglio di quanto abbiano vissuto fino adesso e al livello degli uomini, come minimo, visto che poi non si danno uomini senza donne. Fra un po' si potranno dare uomini senza donne, perché voglio dire donne senza uomini, perché come sappiamo qualcuno si attrezza per conto suo, ma non credo che si possano dare uomini senza donne. Certo, sono d'accordo. Ti ringrazio Oliviero. Eccomi subito qui, Roberta Giordano con voi, opinionista estemporaneo di oggi, giornalista, saggista, scrittore Oliviero Bea. Ci siamo lasciati da poco con uno degli ascoltatori che era convinto che le donne sono piene di privilegi e gli uomini sono i veri discriminati, ognuno ha il suo pensiero, però in questo modo non si va veramente a nessuna parte quando si nega la realtà e quando non c'è onestà intellettuale. Il numero verde, vi dicevo, 800 24 00 24. Volevo leggere velocemente alcuni commenti, poi passiamo anche ad altri argomenti, delle ascoltatrici e ascoltatori sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, relative alle dimissioni della ministra Josefa Idem. Molti sono molto severi e altri invece tirano fuori altri argomenti. Corrado dice: sono giuste senz'altro le dimissioni, peccato solo che le azioni riparatorie da paese civile vengano richieste ed accolte sempre dalla stessa parte. Ora voglio vedere se il viceministro Spergiuro farà lo stesso. Adesso non mi ricordo bene a che viceministro si riferisca. Rick scrive: era necessario soprattutto in questo momento storico politico, quando ti avventuri in politica si deve fare un rapido percorso a ritroso nella propria vita per prevenire certi incidenti. Se avesse fatto prima un'autodenuncia e sanato il dovuto offrendo le dimissioni, forse se la sarebbe cavata. Donata scrive: non si può sempre prendere ad esempio il peggio come scusa per non fare il minimo dovuto. I commercialisti fanno ciò che viene detto loro dai loro clienti, magari propongono soluzioni furbine, ma basta dire di no. Avrei preferito toni meno prepotenti dalla ministra, esigo che mi si creda, idem furibonda, eccetera, quando c'è dietro una bella coda di paglia. E poi dice: sì, lo ammetto, come atleta niente da dire, ma già la scelta di nominarla ministra mai piaciuta. Fabrizio: giustissime le dimissioni perché non è stato un mero errore, lì c'è la frode, per quanto piccola, rispetto a ben altri esempi in nazionali. Imerio scrive: l'unico tedesco che va delle tasse noi lo abbiamo fatto ministro, e dice, è una citazione. Rita: penso che l'ex ministra non avrebbe dovuto dimettersi, è stata bersagliata di offese e insulti da chi è stracolmo di zecche. Grazie Josefa per quel poco che ti hanno lasciata libera. Ida dice: ha fatto bene. Beniamino: poteva dire avevo una palestra ma non sapevo di averla, che funziona sempre, scrive Beniamino. Marta: la mamma pensionata e disabile, mia mamma paga e lei è invece più bella, giuste le dimissioni. Maurizio: in un paese civile chi froda il fisco le dimissioni sono la prima cosa, mai visto chi ci governa, tutti i furbetti del quartierino a curarsi l'orticino personale tanto che l'IMU la pago io da anni, mutuo, casa eccetera. Maria Rosaria: il governo ipocrita ha visto la pagliuzza nell'occhio della IDEM e non la trave nel loro grande occhio, cioè Berlusconi. Andrea: un nano, dice, uguale 20 anni di quasi di guai per il paese, una gigantessa uguale 20 anni di gloria per il paese. Se ci si indigna per la seconda, per il primo, beh, bisognerebbe proprio riacquistare la vista da parte di 9 milioni di italiani. Ennio: due pesi, due misure, assolutamente no, molti di più, ogni persona ha un peso diverso, nel PDL gli indagati per mafia vengono difesi dal Parlamento, un grillino viene accusato perché non vuole rinunciare alla sua diaria, Formigoni cacciato da presidente della Lombardia per inchieste sui milioni alla sanità, lo hanno fatto entrare in Parlamento, un'anziana signora di 80 anni indigente ha rubato del cibo, si è beccata 2 mesi eccetera eccetera, la legge varia in base a chi è l'imputato. Angela: sono dovute, non mi è piaciuta specialmente quando ha detto che ha preso tante medaglie d'oro. A proposito di chi tira in ballo, Oliviero Bea, Berlusconi dice due pesi e due misure, lui indagato, processi, per ora condannato anche se non in via definitiva, mi pare complessivamente a 12 anni, perché lei sì e lui no? Capisco che venga in mente così, figurati, io l'ho scritto e detto tante volte, non è quello. Il problema è che allora rovesciamo la frittata, la crescita. Quindi la IDEM avrebbe dovuto dire: io non mi dimetto perché Berlusconi non si dimette o perché Berlusconi ne ha fatti di tutti i colori. Cioè, quello ha rubato 1 milione, io ho rubato 1 euro e quelli che c'entra. No, ma non come scelta personale. Gli ascoltatori dicono, diciamo, l'agone politico, chi è intorno, chi ha preso... Ma scusate, ma qui stiamo parlando comunque di un Parlamento, non di questo, ma del Parlamento... che ha votato di 2 parlamenti precedenti, che ha votato la fiducia alla nipote di Mubarak. Scusate, forse ci si dimentica, passa tutto così in fretta, che c'è questo è uno dei problemi di questo paese, la mancanza di memoria, da qui la mancanza di identità e di senso del futuro. Io ne parlo spesso anche le volte che è capitato di essere ospite da te in questa bella trasmissione. E il problema è che purtroppo effettivamente teniamo da 20 anni di illegalità, ma di illegalità tollerata. Berlusconi è, come dire, il prototipo, ma ci sono andati tutti, dietro tutti. Adesso non a caso c'è un governo larghe intese che prevede Berlusconi. Tu fino all'altro ieri hai detto che Berlusconi è il peggio della natura umana, ne ha fatto di tutti i colori e c'ha le cause che c'ha. Adesso non entro nel solito merito, perché del resto la cronaca è piena di questo, no? Tutti i giorni ce n'è una, e come conseguenze giudiziarie. E poi ci vanno insieme, quindi non capisco qual è il punto. Il punto è forse che non si riesce a avere una coerenza, una chiarezza, una un'anima politica dichiarata, riconoscibile, questo è il punto di fondo. A meno che, appunto, come per l'opacità di Napolitano, si diceva prima, di Ustica, via dicendo, non si dica: guardate che l'etica in politica è stata cancellata. Qui la politica si fa con i ladroni, con i condannati, quelle cose. L'importante è che ci si metta d'accordo. Allora la domanda successiva è: sì, ma per il bene del paese? Dice: no, non per il bene del paese, per il bene della politica stessa. Ecco, un giorno che questo manifesto verrà pubblicato su tutti i giornali, forse ci metteremo tranquilli, oppure ci sarà la rivoluzione. Ecco, adesso per la rivoluzione, tra poco ci sono Enzo da Roma, Leonardo da Moda e le altre ascoltatori e ascoltatrici all'800240024, perché anche Rosa dal centralino continua a prendere centinaia di telefonate, però Peter Bescapè alla parte tecnica mi avverte che è riuscito a fare il collegamento interplanetario. Riflessioni da Marte. Scrutando il più possibile attentamente l'italico pianeta quassù, da Marte come sempre, a tratti viene da pensare che le larghe intese siano in realtà corde tese, nel senso di tiro alla fune, ovvero da un capo dell'unica corda che tutti stringono tra le mani c'è una squadra che tira, tira, tira da un lato e dall'altro capo della corda c'è l'altra squadra che tira, tira, issa dal lato opposto, sicché le larghe intese divengono altresì lunghe contese. Che gioco epico e galvanizzante però il tiro alla fune, ma perché tranne che per quanto riguarda i partecipanti alle larghe intese non si gioca più per strada nelle sagre di paese, no? Al tiro alla fune. Vabbè. scusate il sentimentalismo, la politica tuttavia, quella italica, in specialissimo modo quella italica, è davvero, come diceva Otto von Bismarck, l'arte del possibile. E prima ancora che l'arte del possibile in terra italica, è proprio prima di tutto arte allo stato puro. Pensate anche solo ai raffinatissimi funambolismi tra IMU, IVA, IRPEF, quasi il gioco delle tre carte. Per riuscire prima o poi a eliminare l'IMU e per rinviare di giorno in giorno l'aumento dell'IVA, che fa il governo delle larghe intese? Con una mano, per l'appunto, rinvia l'aumento dell'IVA e con l'altra aumenta l'acconto IRPEF, roba che neanche il giocoliere più acclamato del circo di Monte Carlo sarebbe in grado di sostenere. Ma l'apice dell'attitudine artistica, i politici italici delle larghe intese l'hanno raggiunto indubbiamente sugli aerei. Non viaggiando sugli aerei, ma utilizzando la lingua italica con maestria inarrivabile per risolvere la spinosa questione degli F-35, gli aerei da guerra. Dopo che sull'argomento per diverso tempo le larghe intese parevano convertirsi in lunghe contese, gli F-35 sono indispensabili per la nostra difesa e per partecipare alle missioni di pace, dicevano gli uni. No, in un momento di grave crisi come questo dobbiamo pensare alla priorità del paese invece di spendere più di 100 milioni di euro per ogni F-35. E come hanno risolto la faccenda con mirabile sintesi PD e PDL insieme? Modificando, in reciproco accordo e armonia, il testo originario della mozione dei democratici, che sottoponeva all'ok parlamentare l'acquisto dei caccia, cioè il Parlamento doveva dire sì o no se ci doveva essere acquisto dei caccia. E come hanno coralmente modificato questa mozione originaria? Solo aggiungendo, magia delle magie, una parolina: ulteriore. La parola magica è ulteriore. Cioè, nella mozione approvata si chiede di non procedere a nessuna fase di ulteriore acquisizione senza che il Parlamento si esprima nel merito. Ergo, l'acquisto degli F-35 già deliberato non viene assolutamente messo in discussione. Ma di quanti aerei stiamo parlando? Secondo Analisi Difesa, sito internet specializzato sulle tematiche militari che cita fonti riservate, la cifra che l'Italia sta pagando ammonta a quasi 1 miliardo di euro. Ma il costo complessivo sarebbe di 12 miliardi. Diciamo la verità, che si sia o meno d'accordo sull'acquisto degli F-35, la scelta di risolvere la questione e di modificare bipartisanamente e radicalmente la mozione originaria del PD con una sola unica parola, richiede, riconosciamolo, del talento. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il pensiero liberale è di destra, ora è buono anche per la sinistra. Non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ecco qui, ritoccato terra coi piedi, torniamo sul pianeta Terra e vorrei sentire al numero verde 800 24 0024 Enzo da Roma. Salve, sono Enzo. Ciao. Da Roma. È chiaro, sì. Sì. Ci stavi pensando. Senta, prego. Io sono intervenuto per stigmatizzare un aspetto della politica italiana che ormai ha stancato ma parecchio. Dunque, non abbiamo più una sinistra, perché questa sinistra, che da 20 anni è composta dagli ex comunisti, è arrivata addirittura al punto di stravolgere la giustizia, che è un caposaldo di qualsiasi società. Al di là del malfunzionamento della giustizia, così in senso lato normale, con i ritardi e tutto il resto, si è dato un vulnus micidiale alla credibilità. E quello che mi preoccupa di più è il fatto che solamente dalla parte destra si è ovviamente parlato e condannato questi episodi. Ma quali episodi? Enzo, di cosa stai parlando? Non mi è chiaro. Della persecuzione di Berlusconi. Ah, ecco. Ecco, io non capisco perché non si sia levata una voce, una sola, fra le tante persone che compongono il resto dell'Italia. Ma perché cosa c'è? Paura? timore. Ma la voce cosa doveva dire, Enzo? Che stanno perseguitando Berlusconi? Ma sì, è una cosa così ormai... Beh, mi pare evidente. Che in tanti lo dicano però, diciamo... No? Ma sì, ma solo da destra, signora. Mm. Non mi chiamare signora, Enzo, mi viene l'uveite, sì. Insomma, Roberta, mi sì, pare, grazie, no? Sì. Sì, ora, quello che non capisco, dico, nella sinistra italiana, al di là degli ex comunisti, ci sono dei fior di giuristi, nessuno che dice una parola, questo mi preoccupa. Enzo, sei stato chiarissimo, ma quello che diceva l'ascoltatore, Enzo da Roma, tu lo condividi, nel senso c'è qualcuno che dovrebbe levarsi in difesa anche da sinistra per Berlusconi? Ma non ho capito in difesa di che cosa, francamente. Perché lo ritiene perseguitato e dice nessuno a sinistra lo riconosce. No, ma sì, ho capito quello che ha detto, ma insomma, a proposito, dopo le marziane, che mi sembrano quelle più incisive sullo stato del paese, forse perché la distanza permette una lucidità differente, ma forse. È evidente che il Ministero delle Pari Opportunità, dopo il caso Idem, è stato sostituito, supplito, non dalle deleghe ai vari ministeri, ma dallo stesso governo. Non è forse un governo delle pari opportunità per PD e PDL? Sì, allora non ce n'era bisogno. Evidentemente, se, come dire, una superfettazione è stata riassorbita dal governo. Detto questo, per quel che riguarda Berlusconi, non so, Berlusconi non dovrebbe essere giudicato e condannato per lo stesso motivo per cui da un'altra parte si dice per cui che viene condannato e giudicato, cioè qualcuno dice viene giudicato e condannato perché Berlusconi e quindi politicamente deve essere fatto fuori, e qualcun altro quindi teorizzerebbe che invece per lo stesso motivo non dovrebbe essere né giudicato né condannato, siamo alla follia. Il problema è tenere distinte le cose, i piani. È vero che la sinistra italiana, gli avversari, perché la chiamiamo sinistra per convenzione, diciamo i non berlusconiani tradizionali, quelli non dichiarati, quelli solo occulti, hanno avversato Berlusconi per tanti anni senza riuscire a batterlo per mancanza di consenso, per carenza di consenso, di consistenza ideale, politica, progettuale. E dall'altra parte questi pensano, dice, allora ci battono solo nelle aule dei tribunali, e però i reati mica li ha commessi solo. Oliviero, sta attento lì a Spoleto, che ti si sente poco col tuo benedetto telefonino, ogni tanto ritorna quel telefonino lì che ci fa un po' tribolare, però sentirei a questo punto il nostro appuntamento con Don Severino da Potenza. Caro Don Severino, un tuo flash come sempre ogni settimana. Sì, ciao Roberto. Ciao, Don Severino. Allora, se fossi nata Margherita ai tempi di Ipazia di Alessandria, molto probabilmente avrebbe fatto la stessa orrenda fine, iniziata, lapidata e smembrata in una chiesa dopo essere stata rapita da un manipolo di cattolici seguaci del vescovo Cirillo. Ecco, oggi è San Pietro e Paolo, in paradiso c'è Margherita Hack e Don Gallo. Io spero che queste due colonne illuminino presto altri affinché ci sia presto una bella rivoluzione francese. Grazie. Accidenti. E questo è Don Severino, prendere o lasciare, non c'è via di mezzo. Adesso invece mi avvicinerei all'altro nostro appuntamento con la linguista Valeria Della Valle della Sapienza di Roma. Cara Valeria, invece a te sottoporrei il termine amnistia, visto che si sta parlando molto, discutendo di questo decreto svuota carceri, insomma, con degli aspetti un po' controversi, tra cui l'amnistia che propone la ministra Cancellieri. Sì. Certo, la ministra, e la parola amnistia è sempre di grande attualità in questi giorni in modo particolare. Il significato più o meno lo conoscono tutti, quindi non starò a ripeterlo. Quello che forse non tutti ricordano è che la parola deriva dal greco amnesteia, che significava già nell'antica lingua greca oblio, remissione. E ancor meno noto è che la parola è in uso nella lingua italiana dalla fine del 200. Prima era in uso nella forma originaria, che era appunto amnestia, e poi dal 600 in poi nella forma attuale amnistia, mentre il verbo amnistiare è molto più recente, perché risale al suo primo uso al 1832. Ecco, oggi ho citato molte date, per quale motivo? Ma solo per fare una riflessione. Se fin dal 200 esiste esisteva il concetto del condono della pena ed esisteva la parola amnistia nella lingua italiana, beh, vuol dire che sono secoli che di questo provvedimento in fondo si discute, mentre a volte sembra che si tratti solo di una scandalosa novità. Non è così. Grazie Valeria Di Valle, adesso grazie. Ti si porta via il vento e ti lasciamo andare leggera con il vento, grazie. E a questo punto volevo chiedere, abbiamo pochissimi minuti, Leonardo da Modena, tu riesci a essere ratto come la folgore? Sì. Ratto, sì, sentiamo. Allora, ho sentito prima che volevate nominare altri senatori a vita. No, Margherita Hack e Borgonovo ormai è tardi, sì, ne avremmo voluti nominare. E poi siete dispiaciuti che è stato abolito un ministero. Sì. Ma ci siamo dimenticati che dobbiamo diminuire i costi della politica. Ma proprio quello delle pari opportunità noi dovevamo abolire? Proprio quello? Ma dovevamo scendere da 12 ministeri a 8. Dovevamo scendere i tuoi ministeri, dovevamo diminuire i costi della politica. Sì, sì, ma guarda caso, siamo d'accordo. Beh, la può fare la Cancellieri e le pari opportunità, la può fare la Bonino. Cerchiamo di non dimenticarci che in questi momenti creiamo le basi per l'aumento dei costi della politica. Leonardo, sei stato chiarissimo, siamo a risparmio. Grazie caro Leonardo. E, Oliviero Bea, sulla questione invece della sinistra, cioè, Renzi ieri sul Corriere mi pare si parlasse del quello che sarà il vero antagonista per le primarie, che è Fassina, Stefano Fassina. Qualcuno dice ma Renzi in realtà non è tanto interessato alla segreteria, lui deve fare il Presidente del Consiglio, perché la gente adesso è più interessata a chi sarà il Presidente del Consiglio, non tanto alle segreterie di partito. E molti dicono Renzi in realtà non è neanche interessato proprio al partito, lui sarà una cosa un po' a sé stante, prenderà voti a destra e a sinistra. In questo pochissimo tempo che ci rimane, che dici? Allora al volo che sì, lui sia pure in sedicesimo, visto lo stato del paese, una sorta di leadership se l'è conquistata e probabilmente la farà crescere. Il problema è per far che, con chi, all'interno di quale partito, con quale idea di governo, tutte cose che francamente io non so, ma probabilmente non sa nemmeno lui. Quindi il problema è che lui fa giustamente con la sua ambizione personale, ma pericolosamente per lo stato del paese, la sua corsa. Questo è il discorso di fondo. Per chiudere, sì. Ricordo che amnesia e amnestia di cui parlavate un momento hanno fa una radice comune. No, hanno una radice comune, questo è un problema che soffre di amnesia e sì. Non di amnestia. Sì, un grosso è problema. Senti, per chiudere, è proprio 23 secondi, Prodi ieri alla Alma Graduate School di Bologna ha detto il buon senso mi sembra che sia la risorsa che più manca in questo momento nel paese, e dice con Manzoni il buon senso se ne stava nascosto per paura del senso comune. Manca buon senso. Questa è una frase, sì, certo che manca di gran lunga, manca buon senso, c'è un deficit di buon senso, però che ognuno si metta la mano sul petto, sulla coscienza, per vedere se quando è toccato a lui il buon senso è stato, come dire, una merce in vendita, in acquisizione. Quindi ognuno guardi per se stesso, insomma, tutti siamo bravi. Insomma, voglio dire, è difficile oggi che qualcuno possa parlare senza essere colpevole di qualche cosa. Guardiamo allora gli scheletri nell'armadio. Intanto con questo io ti ringrazio molto, Oliviero Bea. Alla prossima volta. Da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti. A tutti.